similitudini sono sorprendentemente molte, sebbene siamo in due contesti, con l'italiano e francese, molto diversi tra loro, e la genesi dei movimenti pure diversa. Tuttavia c'è una certa consonanza, soprattutto nelle modalità di organizzazione, perché entrambi i movimenti, cioè il coordinamento 9 dicembre e quello di Gilet Gialli, sono nati su internet e soprattutto su gruppi Facebook, pagine Facebook ed eventi sempre sul social. Poi c'è anche una consonanza a livello di linguaggio, di stile visivo, cioè una presenza massiccia di meme artigianali, video selfie girati da persone comuni o cittadini comuni o persone che non hanno tendenzialmente a che fare con la politica, che diventano virali. Ci sono anche delle scene che si sono viste in Francia, che sono uguali a quelle che avevamo visto durante la cosiddetta rivoluzione del dicembre 2013, su tutte la leggenda dei poliziotti che si tolgono il casco e abbracciano la causa rivoluzionaria. Queste sono, secondo me, le similitudini più evidenti ed eclatanti. Poi c'è anche una di fondo, ed è che sono entrambe due proteste, due movimenti, tra virgolette, che sono nati al di fuori dei radar dei partiti politici, sia fuori che dentro le aule parlamentari, fuori dai sindacati, e che hanno alla propria radice un rifiuto totale della politica rappresentativa e non si vogliono fare strumentalizzare da nessuno. Il mantra è quello del siamo apolitici e non vogliamo avere nulla a che fare con i partiti. Però nel tuo libro sui forconi italiani dimostri, se non ricordo male, che in Italia non è andata esattamente così. C'erano esponenti fuori dai partiti dell'estrema destra che si sono infiltrati o addirittura guidavano, no, questa protesta. Sì, ci sono dei casi anche nei Gilet Gialli, ma le due grosse differenze che ci sono tra i movimenti è che innanzitutto i Gilet Gialli finora hanno avuto molto più successo del movimento 9 dicembre, perché è circa ormai a 2 settimane che vanno avanti le mobilitazioni. Lo scorso weekend sono scese più di 200.000 persone in più di 2.000 luoghi in tutta la Francia, e questo fine settimana ci sono stati presidi, blocchi di nuovo in tutta la Francia, che hanno coinvolto circa 100.000 persone, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Solo a Parigi circa 10.000, e ci sono stati anche degli scontri piuttosto pesanti sugli Champs-Élysées. Ci sono ovviamente anche tentativi, in Francia si chiamano, di recupero della protesta da parte dei partiti, ma mi pare che sia estremamente più eterogenea la situazione in Francia, cioè sia la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon che Marine Le Pen e il suo Rassemblement Nazionale hanno cercato di inserirsi in qualche modo dentro la protesta, declinandola secondo i loro schemi. In Italia non era successo così, la protesta dei forconi era chiaramente più connotata a destra, era molto più reazionaria, se vogliamo, di quella dei Gilet Gialli, che è in un certo senso molto più difficile da leggere e interpretare rispetto a quello che abbiamo visto noi. Ed è proprio questo probabilmente che sta consegnando il successo, tra virgolette, sempre al movimento dei Gilet Gialli, perché è molto difficile da leggere, da interpretare, può finirci dentro di tutto, e effettivamente è finito dentro di tutto, ma ancora non ha una direzione chiarissima, se non appunto il rifiuto radicale della politica parlamentare, quindi la Quinta Repubblica Francese, e soprattutto l'opposizione al Presidente della Repubblica Francese Macron. Possibili chiavi, appunto, a seconda del territorio in cui si esprime appunto la manifestazione. Manifestazioni di Gilet Gialli sono periferia contro centro e basso contro alto, ma questo spontaneismo, che appunto vediamo allora anche in Francia, è dovuto alla crisi dei partiti tradizionali? Sì, in un certo senso, più che dei partiti tradizionali, direi proprio della democrazia rappresentativa. Sicuramente c'è una frattura, se stiamo sullo scenario francese, piuttosto forte tra quella che viene definita la Francia periferica, che non è necessariamente la Francia delle periferie, cioè diciamoci, non è la Francia delle banlieue, anche quella, ma non solo quella, è più che altro la Francia rurale, quella di provincia, fuori dai grandi centri metropolitani, che sarebbe estremamente impattata, perché ricordiamo che la protesta protesta dei giri gialli nasce con una rivendicazione ben precisa, cioè contro l'aumento della benzina e del diesel deciso dal governo e dal presidente Macron per favorire una transizione ecologica. Quindi qui questa è un'altra differenza anche tra i due movimenti, cioè la piattaforma rivendicativa, chiamava quelli di Forconi, teneva dentro qualsiasi cosa, tra cui anche lo scioglimento delle camere, un governo di transizione retto dall'esercito, per dire, mentre nel caso dei giri gialli abbiamo una rivendicazione chiara, che è quella che ha fatto da motore primario la mobilitazione, cioè una protesta fiscale soprattutto, cioè contro l'aumento delle tasse. Quindi già inquadrandola qui si capisce che c'è una frattura tra la Francia periferica, cioè quella che usa la macchina per spostarsi, per lavorare, fare la spesa, andare a prendere i figli a scuola, eccetera, eccetera, e quella, ad esempio, la Francia delle grandi metropoli, cioè Parigi, dove ormai una parte minoritaria della popolazione si sposta con la macchina. Poi, naturalmente, col proseguo della mobilitazione sono emersi altre fratture, quindi la protesta ha attecchito principalmente nei dipartimenti, che sono i dipartimenti francesi che sono stati più colpiti dalla mobilitazione industriale, dal calo del potere d'acquisto, da tutta un'altra serie di motivazioni economico-sociali che appunto hanno, nel corso degli ultimi 30 anni, allargato questo divario e hanno lasciato indietro un sacco di persone. Quindi, se vogliamo, è anche più il profilo socio-economico del giro giallo è anche un po' diverso da quello del Forcone, dove rientrava veramente di tutto e c'erano anche queste figure, però c'era una sorta di direzione politica nei nostri Forconi. Non è solo quello che hai parlato tu dell'estrema destra, ma anche degli stessi organizzatori, ricordiamolo che era retto da un triunvirato, erano persone che avevano a che fare con la politica o erano state trombate dalla politica e si hanno cercate di riciclare micropartitini e micromovimenti che poi hanno trovato una convergenza per una settimana. Poi sappiamo che è finita miseramente perché non erano chiaramente all'altezza di portare avanti una protesta. Invece, per finire, il movimento dei gilet gialli è molto più spontaneo, se vogliamo, del coordinamento 9 dicembre, quindi è da un lato più suscettibile a infiltrazioni e strumentalizzazioni. Dall'altro, però, paradossalmente, queste strumentalizzazioni arrivano a un certo punto, e lo si è visto bene a Parigi questo weekend, in cui non si capiva bene cosa stesse succedendo, cioè non c'era veramente una direzione. La polizia stessa, più che gasare, lanciare lacrimogene la mattina e la sera, non è riuscito a fare altro, perché appunto non era una manifestazione da un punto A a un punto B con delle rivendicazioni chiare. Erano gruppi di persone che si, diciamo così, agglutinavano spontaneamente andando da un punto all'altro in maniera abbastanza selvaggia, e penso che sia anche un'immagine che restituisce bene il senso del movimento dei giri gialli, cioè un movimento di tipo nuovo che ha creato, in un certo senso, un nuovo modello di protesta sociale, una specie di rivolta della piccola borghesia, che in questo momento è impossibile prevedere che direzione prenderà. La cosa affascinante, se vogliamo, di questi movimenti è che si va veramente giorno per giorno, cioè non c'è una direzione possibile, potrebbe avere sbocchi improbabili, imprevedibili, che non si riescono ancora a vedere, è questo che lo rende così interessanti e affascinanti. Però di sicuro è l'ennesimo sintomo, l'ennesimo segnale che la democrazia rappresentativa, con tutte le sue forme, quindi corpi intermedi, sindacati, partiti, eccetera, è in una fase di crisi sempre più acuta e forse terminale.